qualcuno in ascolto? Hola. C'è qualcuno all'ascolto qua sul canale 10? Cambio. CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Hola, CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Chi è avanti? E vai, cuocomane. Cuocomane sarai tu. Tu dove sei? Ehi, anche io lo so, cosa ti credi che non lo sapevo? Ma è vero. Ehi, è vero sono, e allora? Se noi vedi Mucaruru. È vero. Aspetta Luca Puglio, una cosa vuoi che ti telefoni alle 2 del mattino? Ah, bello bene. È vero. Ma è vero sì. E' vero, se non ti faccio dormire e ti faccio parlare con muro. Aspetta che ti suono il citofono, aspetta che ti faccio spullare il citofono. E vieni, vieni, così ti tiro una fucilata al dito. E aspetta, ti metto lo stecchino. E metti lo stecchino, metti, tu. Che dopo scendo giù cazzo ti taglio quella barba brutta che c'hai. Ah, si ti metto un po' di attacca. E ma io c'ho del cespugliatore. No, io c'è spugliatore, tu non ce l'hai. Ehi, vabbè, tu suona il citofono e poi vedi cosa ti faccio io. Ti metto l'attacca. E ti l'attacca, che ti fa, ti metti i piedi nello stradosso io. E poi ti tiro la pedivella alla serratura. E tirami la pedivella, tirami, che già ti arrangio io. Vieni in quente. Poi ti metto la cingoma nella serratura della macchina. Ah, questa non me la dovevi dire. Questa non me la dovevi dire. Così poi ti mangi un brodino di mammo. E vieni, vieni. Che ti aggiusto io, vieni, vieni. Che c'è la pedivella troppa qua. Ah, adesso ti scaccia il vitto la macchina, lo sportello, il quadro con lo stecchino, aspetta. Ah. Guarda che scendo col bastone. Che zoppusi? E allora, non lo sapete. È vero. Ma può usare? E beh. Andiamo, cazzo, sta ricetta. E beh. Mi si faccia di uscita, non scendere in campugna. Ehi, beato te che lo puoi fare, io manco cammina forse. Oh, yeah. Vabbè, là. Lasciamo verde. Ehi, beato, non mangio una gana, guarda, e non mi dai bassa. Ehi, al gioco a chi per caso? Me. Oh, caso non viene per cazzoffa. Ah, così è. E allora? Caso butta a terra. Te grido. Aspetti un attimo, aspetti. Gli ho fatto già una concetta comunque. Cavolo, ha fatto gli anni più di me. Io già lo credo. E aspettina. Però non c'è, già glielo dico che gli hai fatto gli auguri. Quando torna, è uscito adesso. Dice che è la prima volta che fa quegli anni, vero? Sì. Anche io la prima volta ho fatto 46 anni. Cazza. Se ti dico quanti anni c'ha Concetta non ci credo. Cosa avrà? Siamo a 69 anni avrà, non di più. Diciamo 69 ne ha fatto. Certo, non lo dimostra. Non lo dimostrano, anche il cugino è così, Giuseppino. Cazzo, in un momento non anni va via e dopo a Villo, lo vedi che è meglio di me, cazzo. Sono più carrogato io, vedo. Io me ne so, c'è gente più grande di me, cazzo sono meglio di me. Man mano però mi va a 90 anni mi pare, io sono capitente di uno che è anziano a vita, già in pensione, da me, però non li dimostra, è la razza è proprio, non li dimostrano gli anni. Ho capito, fai un attimo Bianco. attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Avanti, chi è? Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? È tutto tace. Boo boo. Avanti, scegliti un pianeta. Ciao Gianfra. Allora oggi qualcosa, tutti in ritardo, tutti, ma oggi c'è la partita, stanno guardando la partita. Può darsi, Giulio sicuramente, se c'è la partita. Domani c'è l'Italia, domani già me la guardo io alle 20:30. Accidenti, sto caricando la batteria dal seghetto. Il seghetto con la batteria per andare via a Monteoro. Accidenti, no, ho sbagliato. A Monteoro è sopra, oramai in cemento quello. Mi ha fregato. Ehi, un trapano ci vuole, qualche candelotto e vedrai che nessuno vede la televisione. No, ma quello fa rumore. Non abbiamo qualche cosa per cemento. Il demolitore a batteria va bene. Gianfra. Ehi, là. E beh, caldo ce n'è. No, sto bene, io entro a casa. Fuori sì. Ciao, buonasera a tutti. Ascolta, puoi darmi un controllo a 145 e 450 a vedere se ho messo la bimanda? Certo che sì. Ti devo rispondere oppure non è necessario? No, puoi anche parlare, così mi dici se la modulazione va bene, se sta a posto. Ok, no, perché volevo accendere un po' preciso. Ci posso andare anche con questo. Natalia, aspettaci qua un attimino, che do un controllo a Claudio. Hai detto 145, cos'era? 145 e 450. Ah, ok, dai, ci sto andando, tanto passo su VFOB. Yeah. Beh, ci sì, casinando già. Ehi, aspetta, se sta accendendo la Zuria deve mettere anche la frequenza. Tu ricevitore ce l'hai, Natali? Già ce l'ho il ricevitore, ma non mi mento. Non mi mento come si fa dei baci dai nodi. Comunque già posso mettere l'altro. Sono anche qua comunque, Natali. Ehi. Ma tu c'hai il ricevitore, sì. Ehi, metto la frequenza e ascolto anche il nome. Claudio, ti chiamo a bassa potenza col portatile. Claudio, Luz. Natali, mi senti io col portatile? Ehi, ah. Basso, immagino. Ehi, non è di basso, no. E no, l'antenna non è la sua, che è un'antenna autocostruita da me, e ti sentivo a te e a lui, a tutti e due, solo che Claudio aveva la radio più forte, da. Perché lui c'ha la voce più forte, semplicemente, è una questione di audio vocale, non è di microfoni, perché sono tutte tarate allo stesso modo lì. E niente, comunque io col gommino copro tutta Sassari, in VHF, poi è uno scherzo, di normale copro in VHF, non ormai è da tanto che non usavo il V, in U copro tranquillamente tutta Sassari, però in digitale, non così in analogico. No, io sto usando l'M60 Natali per quello, hai capito? Sto usando il base della Kimball con l'M60. E mica l'avevo capito, non c'è bisogno di dirlo. Eh beh, quello me la sono tenuta, ne so solo quella, siccome era dentro, era ancora dentro la scatola, ho detto ma esci che la piazza almeno a tenerla in quel rix, ascoltare, a fare. Infatti esito tutti i punti, va bene, dai, no, c'è una X30, non è una piccolina. Niente di che, ok, dai, vi saluto, rimango in quel rix e se mai ci sentiamo più tardi. No, aspetta, claro. Ricordami, qual è quella piccola, l'X30? Perché anch'io, io ho la Comet, no, aspetta, forse a me è la Comet 300. Qual è la più piccola, era la Comet 30 oppure quella di 3 metri? No, la più piccola che c'è la 30, la 50, poi c'è la 300, la 500, 10 e la 7000. Sì, sì che ti sento, chi sei, Franco? Vabbè, ma sono basso basso, sono con la potenza minima. Ehi, allora non c'è problema, Franco, e tu arrivi, segnale 4. Ehi, mi saluta Franco che ad Alghero in macchina e vi ascolta bassi ma vi sente. Ok. Io ho questo qui e c'ha pochi watt, e è logico che mi ascolta basso con questo, sono 4 watt, il 3009 questo. Lo so, vediamo un po' Fra che ho tirato sulla potenza, come mi ascolti adesso? Ok, dai, allora già va bene, se mi sentivi bene anche prima non c'è problema di aumentare la potenza. Dai, riprendete, ciao Fra, che sto facendo cosa? Ci sentiamo più tardi, riprendi già Fra. Sì, lo sento anch'io, però è S0 praticamente, proprio basso basso. Quindi tu sei verso la forza perché sei più in alto. E ti volevo dire una cosa, ma grazie, ma avevi sempre quel portatile, quello digitale, in caso di necessità? Alla grande, sono anche tutti e due carichi, li ho messi al posto di combattimento, la parte VU sia in digitale che analogica è pronta, diciamo. E c'hai anche il coso lì, l'antenna eventualmente, l'adattatore per mettere quella esterna. Sì, te l'ho detto, sono già pronti, non c'è problema. La parte VU sia digitale che analogica è pronta. No, perché sarebbe interessante vedere se da lì sei di fronte praticamente. Se passi sull'imbara, se non ti copre il coso lì, la collina di Usilo, io te l'avevo messo la frequenza, se non ricordo male, c'è anche la tua sigla, che è sempre valida ovviamente per l'accesso. Quindi uno di questi giorni, quando ci abbiamo tempo, facciamo qualche prova per vedere, perché indubbiamente dovrebbe essere una cosa totalmente differente, di lì si arriva sia in diretta che in ponte. Sì, memorizzato, la frequenza è memorizzato, tu ci sono, tutta bene, se non c'è il codice d'accesso con nominativo non si può entrare sul digitale, quindi già lo sai come funziona. Va bene, dai, quando vuoi facciamo qualche prova già fra, comunque siamo già tutti e due al posto del combattimento, ti ripeto, la parte VU sia analogica che digitale ce l'ho. E poi la 3x9 e la KF, basta, non ho messo altro per il momento. Ok, dai, vi saluto, a dopo, ciao Gianfranco, Antonino e Franco. Franco, riprendi, vediamo un po' se ti ascolta Sassari. Lo sentite a Franco? Io negativo. Io lo sento basso basso. Lo sento ma è bassissimo. Senti più a Gianfranco che a Natalino, e vabbè Natalino sta usando poca potenza, ma anche Gianfranco, evidentemente la zona magari è più favorevole a dove sei tu, Fra, capito? Aumentare la potenza a Gianfranco? Vuol dire che è aumentato per appena, dai. Comunque. Non ti sento, Natalino non ti sente per niente, Gianfranco ti sente basso basso, Fra. Dille in che zona è? In che zona sei? Sempre lì a Uras, dietro Monte Agnese, capito? Lì. Quindi che passasse le coperte? È abbastanza, no, qua arrivo, non c'è problema. Pensavo che questa zona fosse, invece mi sa che ho perso ben poco. Va bene, dai, vi saluto, ciao Fra, un abbraccio, ci sentiamo, ciao a tutti ragazzi, a più tardi. Ok, ciao Fra, alle prossime. Sì, io ho aumentato un pochino, per quello che adesso mi sento forse meglio. Ciao Franco, buonasera, purtroppo ti sento ma proprio al limite, ho dovuto addirittura mettere un amplificatore, quindi non so se ti posso ascoltare, evidentemente sei in zona molto coperta. ancora, però c'è, si sta levando anche la popolazione adesso, quindi sotto c'è un po' di rumore. Eventualmente se ti sposti in zona migliore chiamaci, intanto siamo qua con Natalino. Riprendi Natalino. Aspetta, voglio vedere se mi ascolta Franco. Franco, se mi ascolti dillo a Gianfranco un attimo. Ma che c'è, io c'ho il QRM. Oh, Franco, c'è la possibilità dell'FM per vedere un po' se va meglio? Sì, sì, anche tu Natali. Facciamo una prova FM un attimino. Natali, Natalino M. Ce lo siamo perduto. Natalino? Sono qua. Già ce l'hai messo ad arrivare. Ma molto lontano è l'SSB dalla M. Comunque ti sentiva, probabilmente con l'apparecchio forse un pochettino sordino, leggermente sordino magari, oppure l'antenna vuole messa qualche centimetro in su. E diciamo qualche metro. Alghero, arrivavo sparato io da dove stavo prima. Sì, no, ma io Alghero lo sento, tu pensa che su tutti i punti, quasi, non dico metro per metro, ma quasi, perché ho fatto le misurazioni, riesco ad arrivare in UHF bene col portatile, esattamente dalla fine del molo nuovo, diciamo così, di Alghero, dove c'è il faro, il faro d'ingresso, in UHF a Sassari ci arrivo tranquillamente. Quindi in VHF invece arrivo da tutto il porto tranquillamente, perché è una zona più adatta verso di me. E così. E poi lui è dietro col monte di Galetto Claudio, quindi deve essere anche zona abbastanza coperta. Comunque in banda laterale ti sentiva? Magari mi sentiva, ma ero io che ero sordo, causa l'antenna troppo bassa. Che cavo usi tu per l'antenna? Il 213, c'ho. Di quello buono o di quello che stanno facendo adesso con questi fili di ferro? No, che già è di quello buono. E poi l'altra calata che ascoltavo a te, con Claudio, è l'H155, con quell'antenna autocostruita. Quanti metri? Saranno 12 metri, da. Saranno, fa 15 metri di cavo. Allora già in UHF fai poco e niente. No, non va bene il 155. Ci vogliono cavi performanti. Io utilizzo direttamente un tubo di idraulica, il Celflex, però è per usi proprio di quelli, perché sono 30 metri, capito? Quindi sono usi particolari. Per quella ausiliaria invece uso uno che si può interrare anche senza guaina, che è il Messi Paloni, cavi professionali e di alta qualità, per avere minor perdite, se no in UHF già inizia a pigliare colpi. Sì, infatti. Cosa non posso pretendere? Poi io non posso salire sul tetto, se no almeno quella della 27 me l'avrei messa bene, mi avrei messo un'antenna anche per lì come si deve, perché se salgo sul tetto e rompo qualcosa mi fanno pagare tutto il tetto, è già tutto mezzo crepato. Poi magari sono quei tetti a tegole, di quelli vecchio stile, spioventi a tegole sotto in legno. Sì, così deve essere, a tegole. Poi sotto non l'ho visto come. A Giugana di Barazzi in casa di quella dell'ultimo piano. Magari se so la Santa Maria le fa pure piacere, dice sono state esaudite le mie preghiere. Solo che poi ne fai peggio della caduta, Natalis, se c'è molta fame. Oh, iui. Ah, caduto dal cielo, E poi il resto te lo dà quando torni a casa, tua moglie. Oh, iui. sì, quelli in legno sono pericolosi, lì Natali, ne ho visto alcuni, sembrano così, però sotto tutto marcio, quindi non ti fidare neanche per scherzo, se sono in quelle condizioni, finché sotto c'è il cemento armato, allora va bene, ma così, cioè, non c'è da fidarsi. Un attimo, assolutamente Gianfra, assolutamente. L'ho messa così l'antenna, mi dila Claudio, perché proprio non potevo salire sul tetto. Se ci salgo, salgo uno di quei camion che c'ha, di quei camioncini che hanno la scala aerea. Allora posso salire, metto due tasselli, l'antenna e via, me ne scendo, senza toccare né tegole né nulla. Non ci salgo sul tetto, no, che faccio danno. C'era stato un break, avanti. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, ben sentito, buonasera, avanti Gianfra. Sì, ciao Gianni, ben ascoltato, buon caldo, oggi sta battendo forte. Solo peccato che la scala aerea poi ti costi quanto tutta l'antenna, tutto l'apparato e cose del genere, perché anche a noleggio sono carissimi. Quanto è alto quel tetto? Saranno 10 metri, fa 10 metri, non di più. E quanto il mio traliccio, quindi. Però la scala aerea comunque costa, poi non è detto che ti fanno salire col cestello, serve essere sempre un operatore per farlo al lavoro, perché se no si mettono nei guai, a meno che non te lo noleggi a tuo rischio e pericolo, ma non è sempre una cosa così. Avanti Gianni. E poi c'è da vedere se il canno c'entra lì nel vicolo, se va a vedere. Se stai usando una unità all'altra e si sale. Io ti sento un po' saturo, è troppo forte rispetto a quella di Natalina, è quella che c'era anche prima di cosa. Abbassa un pochino che ci stai assorbendo, già bastano la propagazione. Niente Natali, comprati un paio di ali. E già lo trovo il modo di salire, non c'è problema. Il giorno che mi rompo le scatole, se c'ho l'antenna in campagna se ne sta ridendo. 2 mesi aveva quando me ne sono andato quell'antenna, per 2 mesi l'ho usata, è sopra un palo da 12 metri e in più sono a 426 metri sopra il livello del mare, a Baida Cantuso Guinacium. L'ho misurato col GPS. Ma tu, cioè dovresti adesso sei a 400 e passa così? No, in campagna. Se ti sto dicendo, arrivavo da tutte le parti. Qua è sordo pure, non hai visto che non sentivo a Franco? Oh. 400 è molto alto, quasi quanto Osilo, cioè un po' più giù di Osilo, dai. Riprendi Gianni. Lo so, se ne avete di quest'antenna che è un peccato a fare la ruggine di lì. O che ti dice di chiami in chili oppure le radini se la vuoi in chili. Ero al telefono e mi ha telefonato mia moglie. Ah. Natalia, appena sentito che ci scendevi in quella dell'ultimo piano, visto? E non lo dia Faura, no, Gianfra, perché lì se vai sul tetto ci scendi giù. Io lo so che è tutto rotto, è per quello che non l'hanno aggiustato a poco pure che era rotto, e quindi io non ci salgo assolutamente. Io le tegole non le devo toccare se salgo lì. Ma cos'è a bottola? Lo devi spostare le tegole addirittura? No, c'è una finestrella che si esce da lì, in quello lì l'attacco l'antenna, in quello che sporge, in quel muro che sporge dove c'è la finestrella. È un macellone così, un macello. Ci sono molti posti che fanno addirittura senza porte. E poi bisogna che stato si trova anche quella botola. Se accettiene, perché quelle case sono un po' vecchie. Non è che tengano bene lei. Bisogna vedere che condizioni è. E cosa vuoi che ti dica? Infatti io l'ho attaccata così l'antenna, per quel motivo, solo che a salire di più il palo non fa, perché ondeggia troppo, no, non andrà bene. E poi non è una Mantova 5, è una di quelle Energy, leggerina, figurati. Su in campagna c'è la Mantova 5, è ancora lucida, l'ho vista l'altro giorno. Per poco mi metto a piangere. Ma io la tengo la pigera dalla me. Io ti do questa che è leggera. Ah. Natalia, ma in che zona è la campagna? Qui, dietro a Osilo. Perché campagna a campagna ci sale a Osilo lì. Ti sto dicendo che sono in alto. È una bella zona, io già l'ho vista. È una bella zona già. Sì, ma infatti me lo sono immaginato, sono andato 400 metri più di lì non poteva essere. Se c'è la campagna anche, era meglio stare lì che venire qua in città, o vabbè che poi dovevi andare sempre in macchina, eccetera, ma sai com'è? Lo so, ma non mi piace più andarci lì, se no non mi sarei stato lì a abitare. C'ho anche la casa a 110 metri quadri lì. Figurati. Infatti poi ci sono persone che non voglio vedere, quindi è meglio stare tranquilli. Allora un altro conto. Se ci sono rompiscatole, allora non va bene. È così. Peccato. Vabbè, vuol dire. Adesso ci mettiamo il ripetitore lì. Lì già si può mettere il ripetitore. ma oramai non c'è, anche quelli mi pare che stanno diventando vecchi piano piano, le nuove tecnologie, parla dappertutto senza bisogno di quello a fare lì, di andare in montagna a mettere antennine, antenne contro antenne. Sono altre tecnologie che sono molto più economiche e soprattutto le puoi riparare più facilmente. Riprendi già. Del tipo già fra. Sono sistemi network, ho capito. Cioè, ti faccio un esempio, io in UHF copro da Sassari, poi mi collego tramite rete o sistemi comunque digitali ad Alghero e ti copro Alghero, sempre con potenze bassissime. Poi da lì mi collego a Cagliari e quindi ti posso. Sono sistemi, si chiama sistemi radio network, capito? Che possono portare segnali anche di portatili a distanze notevoli facendo una grossa copertura del territorio. Ma funziona solo per le bande radioamatoriali, non per la 27? No, non funziona soprattutto con le bande civili eccetera. Poi anche i radioamatori hanno fatto tante cose anche lì, però funziona sulle frequenze alte. Sulla 27 c'è un unico problema, quello del rumore, a meno che non si passi sulla 27 in digitale, che ho visto che la qualità è tutta un'altra cosa, ecco. Però gli apparati sono veramente si contano sulle dita di una mano. Ma se tu trasmetti digitale 27, io sono normalmente, sto trasmettendo normalmente, vi ricevi lo stesso? Dipende dall'impostazione, c'è una funzione che si chiama dual, praticamente, che se l'apparato si accorge se in analogico ti può commutare in analogico, e questa c'è su tutti gli apparati, anche VHF, VHF civili, perché molti hanno ancora il digitale e quindi per poter comunicare con gli apparati digitali analogici, per poter comunicare con gli apparati digitali devono avere questa sorta di switch, capito, automatico, che gli apparati si possono continuare a usare, ecco. Cala gala, alla vera. E qua siamo, stavo sempre detto, siamo molto molto molto indietro con la M. Sono paesi, se tu senti sotto, anche sotto l'uno, in Germania si sentono tante trasmissioni particolari, e hanno anche un BBS sul, tra il 22 e il 23, se non ricordo male, c'è un tutto un network lì in tutta la Germania per la trasmissione dati, e qua ne hanno di pasta asciutta a mangiare. Noi siamo piccolini. Io le mie esperienze me le sono fatte. Beh, quando arriverà qua sarò morto, quindi cosa me ne frega? Facciamo, chi vuole fare? E con chi lo fa? Col muro. Qua non ce n'è di quella gente, capito? Non ha... Sono tutti con gli effetti eco, gente con capacità di quella tecnologia, no? Di là sono tutti appassionati, capito? Ci tengono, è tutto un altro mondo, anche come associazioni. Tu vedi quando comprano qualche ponte, quando comprano qualcosa, fanno le feste, insomma, è un altro ambiente, dai, è un altro modo di operare. Noi siamo, come si dice in sassese, tutti per conto nostro, senza gabbi, senza barretti. Gara, gara! Gianfra, io me ne ho fatte quelle esperienze che parlavamo col computer, avevamo la BBS e tutto, lui ce l'abbiamo fatta quelle esperienze, non ti preoccupare, addirittura eravamo in banda laterale noi, e per parlare tra di noi usavamo un'altra frequenza, capito? Sì, ma io ce l'ho attualmente, cioè il primo pulsante sono in tutti i sistemi, ho tutti i sistemi, poi sono una delle poche stazioni che ha così tanti sistemi di trasmissione, sia civile sia amatoriale, perché ho le licenze per fare i programmi. Ce n'è uno che serve solo in ricezione, che lo vendeva, non mi ricordo, a 5.000 euro, una cosa del genere era. Ci volevamo gli aggiornamenti e lavorava, cioè funziona ancora per carità, però all'epoca era veramente una cosa costosissima. Sì, vabbè, adesso tutti se ne sono andati, c'era Pino, c'era Adriano, c'era io, ce n'era poca di gente quando andavamo in così, andavamo nei canali di sotto anche noi. A Roma dicono chi c'è il pane non c'ha denti, chi c'è denti non c'ha il pane, capito? Tutto lì. Riprendi già. Se no lo pare di ex che va già a casa di Natalina, uia. Ma lì si parlava con tutti i posti. Quando veniva Salvatore Teorico di Natalina. E lui parlava in banda radio amatoriale. Perché lui aveva la patente, la licenza e quindi... parlava lì, c'è ancora la G5RV, cioè costruita da me lì, è un paruaccio, è vera antenna, lo guarda, è tutto pieno di antenne lì, c'è la X300, il trombone per la VHF, non è poco. È l'arsenale lì. Sì, e se no quando stavo in via Petrumica, varia la centrale di Carabinieri, a me non è poco antenne lì. Il Dipolo, il Dipolo, Dipolino, cioè addirittura per i canali di sopra qua c'avevo un Dipolo fatto apposta. Vediamo, lo ricordo, quello che era attaccato all'albero. Non me lo ricordo, no, quello per i canali di qua, quello per il canale di chiamata internazionale di qua, c'avevo il Dipolo fatto apposta per quei canali. Sta salendo la propagazione, guarda che stavo chiamando. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Brecco, brecco. Mamma mia, non già mai, se non entrano magari. Basta aumentare un po' la potenza. pensa, ti ho poco fa, Natalì quando c'era Franco D'Alghero, ho alzato un pochettino e subito sono spuntati come i funghi, sentivano parlare perché non ne va la pena. Anzi, oggi meno male c'è un QRM accettabile, ma negli altri giorni si alzava di brutto. Sì, infatti a proposito di alzare, dici che qua già va bene con 2 quattro e mezzo. Non stai più disturbando Natale? No. E che cos'hai adottato come metodo? E ho girato l'antenna. Per addirittura un'altra antenna che a metterla al centro della strada, ho girato il tubo dell'antenna e si sono girati anche i radiali. Dal giorno non è venuto più nessuno a suonare. E allora l'ha puntata sull'antenna del televisore sicuramente. E vabbè, è interessante che risolvi. E infatti. Almeno posso parlare un po', se no mi toccava stare sempre ascoltando e basta. E la prossima antenna allora che ti metti? Mettiti una Game Master che è leggera e in più non c'ha radiali, e quindi è più, forse più adatta in quella situazione. Che male non è fare, guarda, ma con 300 watt fatti buoni. Io vi saluto, Ciao! Mica entrando, mica entrando, quello del televisore, mi. E allora, ciao Gianni, Natalino e Gianfranco. Allora, stavo guardando la partita, adesso è finito il primo tempo. C'è ancora un tempo da giocare, e poi un'altra stanotte. Vai Gianfranco. Sì, e allora Natalino la batteria non la carico nemmeno, perché volevamo andare a Monteoro col demolitore a buttarne giù quella cosa. Ah, vabbè, poi tu sei anche via satellite, cioè pure fregato, te lo immagini? No, allora dobbiamo andare a Nene a staccare la luce. Giulio, noi ci siamo un po' qua, infatti io tra poco sono quasi le 7, me ne scappo. Queste si siano le partite che ma quanto durano Giulio ancora? 90 minuti. Oltre luglio, metà luglio più o meno. Mi sembra che finiscono l'11 luglio, una cosa del genere. Che bella fregatura. Oh Giulio, guarda che comunque ho sentito adesso che iniziano a metà luglio, c'è il Giro di Sardegna che inizierà ad Alghero, quindi anche in radio ci sarà da ascoltare parecchio. Sì, lo so, guarda che più informato di me per lo sport non c'è nessuno, è dal giorno 14 iniziano, dall'11 al 14 mi sembra, una cosa del genere. Sì, lo so, sono informatissimo Gianfra. Gianfra, dove si ascolta lì? Ci sono tantissime frequenze. Guarda, io posso parlare per il Giro d'Italia, adesso non so come sarà l'organizzazione, se sarà a livello nazionale, ma se c'è la RAI probabilmente sarà così. Quindi utilizzano per la telecronaca i trasmettitori satellitari, che sono quei soliti autocarri, no? I furgoni con dentro tutti i trasmettitori, eccetera. Mentre quando c'era il Giro d'Italia, ad esempio, che era a Cagliari, che io li ascoltavo, utilizzava un aereo in quota che faceva a bordo, c'era un ripetitore per collegare anche le moto e quelle in audio e video, con le telecronaca, sinfonia, eccetera, oltre che video. È una bella organizzazione, apparati radio di tutti i tipi, anche per le macchine, per i cosi lì, per come si chiama, per Radio Corsa tradizionalmente era sempre in 27. E poi cosa c'è? Poi ci sono le trasmissioni tra ciclisti, che però quelli sono a bassissima potenza, hanno i soliti microtrasmettitori, quelli piccolini. Comunque a metà luglio partenza da Alghero. Sì, si parte da Alghero e poi alla fine si arriva a Cagliari, dopo varie tappe là. Ma passano anche per Sassari? Sì, passano anche a Sassari, credo proprio di sì. Non so se passiamo in Piazza d'Italia anche. Arrivo in Piazza d'Italia addirittura. Io so che una tappa dovrebbe arrivare in Piazza d'Italia. Va bene, va bene. Non la cavi in fridanno, capo, ora farò io, su, dai. Ciao.